amici, questo è lo zio Fred e la nostra trasmissione notturna fuori programma. Ci siete? Ci siete tutti e tutte? Anzi, prima le tutte e poi tutti? Beh, buon ascolto sulla frequenza infrequente di Radio Antidoto. Amici, amici della notte, radio antidotista, allora, che si dice? C'è modo oppure no di passare una bella serata così tra amici, con un po' di musica e magari raccontarci due cose di queste giornate un po' strane, di questa vita un po' balsana. Niente, di progetti, idee, cose, storie, Beatles, che ne so, qualcosa, boh. Nel frattempo io metto un po' di dischi che mi ha passato Celeste 2 anni fa, così ne approfitto, la saluto, ciao Celeste, ci manchi, chissà che fine hai fatto, Al vai vende mi carretta. Tiè, questa è per te, Celeste. Dove sei? Thank you. mi sudor. Sto riaprendo un po' di vecchie cartelline nella mia collezione di suoni e li avevo messi all'inizio così bene per argomento, e quindi mettendoli per argomento ho recuperato un pochettino di cose legate a novembre. Nel novembre del 20, mamma mia, ho trovato queste belle tracce lasciatemi in eredità dalla zia Celeste, che è persa a fare le sue cose, un po' che non si sente. La salutiamo. Ciao Celeste, questo è Afrocubismo, non so se è il vero nome della traccia, ma si chiama Al vai vende mi carretta. E a questo punto passiamo ad un'altra cosa. Cambiamo atmosfera e andiamoci a sentire dal vivo Alice Febe Lu con She, così, perché no? Thank you. Perché no? Perché no? Andiamoci anche noi su Marte, no? Tanto che ce frega, non c'è più niente da fare qua. E vabbè, torniamo a botta su questo viaggio nel Radio Antidoto di qualche anno fa, nelle notti Radio Antidoto di qualche anno fa. Ho trovato anche un'altra canzone che tanto che non metto, mi è venuta voglia di risentire. Questa è una cover fatta da The White Buffalo ed è una cover di Bruce Springsteen. Ed è una cover di una canzone che mi piace molto di Bruce Springsteen, ma mi piace più questa versione di White Buffalo. Si chiama I'm on Fire. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Ooh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do right? Well, I can take you higher. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and put a six-inch valley through the middle of my soul. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head, and you can cool my desire. E questa era Monfire. Quel periodo in effetti mi parlava parecchio anche questa canzone. Beh, sentiamo un po' qualche altra cosa, va. Vediamo un po' cosa posso mettere, cosa ho trovato qua nella cartellina. Proviamo questa non me la ricordo. Questa è una canzone, Brown Bird, Thunder and Lightning. Sentiamo un po' di che si tratta, va. This song is called Thunder and Lightning. Huddled there alone in your tower of tears, every step of Are these supposed to be the pedals? It's kind of cool. Damn, my crew and my crack. Catch up on the mighty and high. Oh shit, Chevrolet. Fuck, it's an American car. No truth in the world for the lies. I run from giving fed to foes, from and stumbling around. Gather all the greed to go back to their hole in the ground. Wash their hands of all the blood, beg the barroom store. Keep a good man down. Che sarà che ci porta in posti strani sotto terra a scavare? Che sarà? We were hard-hearted heathens to this so Satan saints. Feeling blood in the sink, that's what we made. We were the heathens to their saints. Feeling blood in the same God's holy name. Shake your hands, the Holy Ghost. Dance along in every coast. Fully new, unused GP7 mask. Be sure to breathe in deeply every bit of sin that your lungs can hold. Oh yeah. These are baby masks, the ones I saw in Chernobyl. Goddamn. Helmets. Medicine packs. We got huge filters. And GP5 masks. Mask pouches. I've seen bunkers with equipment like this, and I've seen all of this equipment spread around individually around bunkers, but they're in this perfect brand new condition. So, what do you got next for us? We thought we'd bring a friend from Nashville with us, Miss Margot Price, to come sing us in. Well, I miss my mother, and I miss being her son. As crazy as it was, I wasn't much one. Sometimes I miss her so much, wanna hop on the next jet. And I'm lonely, but I ain't that lonely yet. And I love my sister, Lord knows how I missed her. She loves me, and she knows I won't forget. Sometimes I'm jealous of all her little pets. And I'm lonely, but I ain't that lonely yet. To touch, there's a girl that I know of that don't ask for much, but she's homely and she's cranky and her hair's in a net, and I'm lonely, but I ain't that lonely yet. Call you when I feel like a pest, and Jack White e Margot Price live, vecchio standardone country, I'm lonely but I'm not that lonely yet. E quindi su questo passiamo qualche altra cosa e cambiamo completamente genere, perché alla fine perché no, cercando nel cassetto alcune cose escono fuori così, dritte, country, rock, e altre un po' più strane, un po' più friccicose. E quindi torniamo un po' a bomba dentro questa grotta, dentro questo suono strano, dentro questo riverbero thank you. bag and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll say all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing. Then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. Mm-hmm. Oh, my loving, I will send to you. Essere tornato due anni fa a camminare nel deserto in compagnia di personaggi simpatici come la povera Amy Winehouse. Bene, e adesso qualche altra musichetta, ma sì, dai, è solo la prima mezz'ora di trasmissione che sta passando, siete in compagnia del Riverbero e dello zio Fred e di questo deserto incredibile, immaginifico e notturno in cui mi faccio compagnia da solo. Thank you. sì, cerchiamo rifugio, anche noi, cerchiamo rifugio per non cadere in tentazione. Che si fa? Arriverà questo cacchio di rivoluzione, di istruzione totale, di fine, di inizio, di passaggio in India, Che si fa, porca miseria? Mr. President, I would not rule out a chance for serving nuclear some human specimens. It's quite easy. At the bottom of some of our deeper mine shafts, radioactivity would never penetrate a mine some thousands of feet deep. And in a matter of weeks, sufficient improvements in dwelling space could easily be provided. How long would you have to stay down there? Well, let's see now. Cobalt thorium G? Radioactive half-life of... I would think that possibly 100 years. You mean people could actually stay down there for 100 years? It would not be difficult, mein Führer. Nuclear reactors could... I'm sorry, Mr. President. Nuclear reactors could provide power almost indefinitely. Greenhouses could maintain plant life. Animals could be bred and slaughtered. A quick survey would have to be made of all the available mine sites in the country, but I would guess that dwelling space for several hundred thousand of our people could easily be provided. Well, I would hate to have to decide who stays up and who goes down. Well, that would not be necessary, Mr. President. Could easily be accomplished with a computer, and the computer could be set and programmed to accept factors from youth, health, sexual fertility, intelligence, and a cross-section of necessary skills. Of course, it would be absolutely vital that our top government and military men be included to foster and impart the required principles of leadership and tradition. Actually, they would breathe prodigiously, eh? There would be much time. And little to do. But with the proper breeding techniques and a ratio of, say, 10 females to each male, I would guess that they could then work their way back to the present gross national product within, say, 20 years. But look here, Doctor, wouldn't this nucleus of survivors be so grief-stricken and anguished that they, well, envy the dead and not want to go on? Quali sono i tuoi colori preferiti? Riesci a metterli in fila e sognarli tutti insieme senza mischiarli, senza far diventare un marroncino verdolino nerastro, eh? Quali sono i tuoi colori preferiti? Dimmelo, dai, sussurramelo nell'orecchio. Dai, prima di chiuderci nel bunker. You mentioned the ratio of 10 women to each man. Wouldn't that necessitate the abandonment of the so-called monogamous sexual relationship? I mean, as far as men were concerned. Regrettably, yes. But it is, you know, a sacrifice required for the future of the human race. I hasten to add that since each man will be required to do prodigious service along these lines, the women will have to be selected for their sexual characteristics, which will have to be of a highly stimulating nature. I must confess, you have an astonishingly good idea there, Doctor. Thank you, sir. An astonishingly good idea, Doctor. E andiamo avanti con la trasmissione notturna lanciata così nelle onde del mare, cercando di tirarci sul morale, tirare sul morale ai gentili ascoltatori di questa notte di Radio Antidoto, qui sempre qui su www.radioantidoto.orgasmatron. Agh. Oh, yeah. Oh. Ecco. E mentre i Black Pumas vanno avanti per ancora 2 minuti e mezzo con questo pezzone da gran finale, io preparo un'altra traccia così per tenerci compagnia stasera, e saluto a Diana. Ciao Diana. Stasera, già che c'ero, ho disegnato e dipinto un pochettino, un po' di giorni che non facevo, e mi sono venute delle teste tagliate infilate in dei pali. Secondo voi che vuol dire? C'è anche un uomo stellare in una caverna, sull'apertura di una caverna, con delle stelline, quindi è di notte, è un pianeta che secondo me è Venere, ma sta sull'altro foglio, quindi non conta. Teste tagliate, infilate nei pali. Bah. Saranno questi i miei colori preferiti stanotte. Mi devo preoccupare. Nelle orecchie e svegliati. C'è qui lo zio Fred che ti tiene vivo, si spera, ti tiene pronto qui a lanciarti giù per il dirupo verso il fondo del burrone. Ti tengo dalla camicetta. Divertito in braccio. Oh mamma mia. No, no, te no, te no, te no. Ah, ti blocco subito. Invece mettiamo questa. Ah, questa va meglio. Sono i Crash, Cigarettes After Sex, che non usa veramente più, non usa proprio più, anzi sarebbe considerato quasi un sacrilegio accendersi la sigaretta dopo aver scopato, una cosa da film anni 60, ma la canzone non è male. Quello che hai ascoltato prima invece era This Blues Hip Hop di Scarecrow, un pezzone, sicuramente un pezzone, ma lo riporto giù perché non è ancora il momento di partire per la tangente. Quindi Cigarettes After Sex. Gettone di apprezzamento, questo sospiro così sollevato in release che qualcuno ha lasciato su Freesound, poi li ha cancellati ma sono riapparsi. Secondo me erano ricordi, bei ricordi suoi ovviamente, ma anche della signora in questione, che dimostrava di apprezzare una pratica erotica giocosa privata che il bastardo ha messo in condivisione con altre migliaia di persone grazie a questo strumento fantastico di desublimazione sessuale che è internet. E così, anche se non sono più di moda le sigarette dopo il sesso, rimane sempre il sesso da qualche altra parte, altro modo, ma sempre lì, nel mezzo del nostro ipotalamo, o anche da qualche altra parte a scelta. che, come si suol dire, tra adulti consenzienti tutto è lecito e legittimo e anche in fondo garantito. E passiamo a un'altra atmosfera, se mi riesce il mix, se mi riesce, non lo so se mi riesce il mix, ma io ci provo a passare a qualcosa di più dub, più profondo, sempre un po' erotico, un po' zozzo, ma più profondo. Questa è Babazula, si chiama Erotic Adab, Dab, Aridab. Forse la revisione, forse l'impatto, forse l'apatia, forse il punto, il contatto, forse la distonia o la disarmonia o la schizofrenia, forse la compulsione, o forse la tensione, o forse il dubbio, forse l'ambiguità, la bipolarità, o l'antitesi, forse la possibilità, l'impossibilità, forse la soluzione, la determinazione. O forse la pulsione, Forse il gesto, lo schianto, l'urlo, la frenesia o l'immobilità. O forse l'entropia. Forse l'anestesia. Il vuoto. La follia. Gamba storta, era vestito bene, sempre gentile, non loquace, e ha suonato per noi nella strada vuota. Il mio cane nero respirava annusando tra le auto e guardava verso la mia finestra accesa. Sai, i peccati della carne non espressi rimangono a lungo appoggiati sulle pareti, invece tra noi piccole particelle elementari e zucchero il peccato non esiste. Il peccato tra noi non esiste. E così mi rimetto un pochettino in marcia verso l'unico posto, l'unico punto fisso della programmazione radiofonica, che consiste in un po' di pace. Questo posto si chiama Bamako, è in Mali, non ci sono mai stato, ma tutte le volte che cerco un pezzo musicale trovo Bamako, il mio umore sopravvive. Spero anche il vostro a questo punto. Thank you. from Baba Hooty, I got a mayo Mali go Joe. Baka come from Baba Hooty. You know about La Llorona? That's some kind of woman that cries at night. She starts just yelling, you know, in Spanish, mis hijos. Ay, mis hijos, all my children. And what was so frightening was that she was already dead. She was a lady in black, and she had black hair, and she was kind of old. And she didn't have legs, she just floated around down the streets crying, and her eyes were always wide open. With this big dress at the bottom, like extending out, and the top laced, real beautiful dress. On the bottom, though, it'd be very raggedy, just making her seem much longer, and floating in air, on air, and just crying through the streets, going, mis hijos, mis hijos, and then the wind howling behind her. I thought it was real, and I thought she would get me if I went out at night. People used to tell me it was a real story, so for me it was very real. When you're a kid, I guess in the United States you have the boogeyman. In Mexico we have La Llorona, means a woman who's crying. This woman found out that her husband was having an affair with someone else. The most precious thing that they had was their children, and they were precious to both of them. So one day she took her children to the river, and they were playing, and she was watching them, and she at that moment felt enraged by what her husband, what she had found out her husband had done, and grabbed the children and drowned them in the river. All of a sudden she realized, like waking up from a trance in the evening, and saying, where are my children? Where are my children? That's right, I left them at the river. So she runs back to the river, and this was at night, at midnight, and starts just yelling, mis hijos. This howling sound, I mean, you can sometimes hear it. It's almost like, you know, because the legend exists in your mind of the wind carrying it. No. And every time you're near water or a river, quindi si va così stanotte, si naviga a vista tra un umore e l'altro, come schizofrenici patentati, ricoperti di scaglie verdi in cerca di un raggio di sole per scaldarci. Au. E abbiamo passato la mezzanotte quasi volando sulla superficie del mare, un po' come attaccati a un aquilone, e sarebbe quasi ora di lasciare lo spazio alle onde, ma penso che voglio mettere un altro pezzetto così. Questa si chiama Dry Dirt, sempre dalla collezione Celeste, grande Celeste. Just so. quasi quasi vi faccio vedere le due teste che sono uscite nel disegnino. Ve le metto dentro la chat ascoltatori, va, vediamo un po' che ne dite. Eccole qua, così i miei psicanalisti della notte potranno dirmi un po' a che punto sono con la pazzia. Ultimo pezzo di stasera, vi beccate questo, che ci vuole. Ci vuole! Con questo vi saluto zio Fred. Vi saluta in modo un po' così, you smiled at me and really un po' allegro, dai, melancolico, ma allegro. Grazie di essere stati con me, alla prossima, buonanotte a tutti e tutti, con amore, dallo zio Fred. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Smiled at me and really, really eased the day. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. I love you.